esserne come in raffa e mi auguro buon compleanno. Rocco Citelli, spero che tu stia bene e che la tua famiglia, perché sei migliore. Ti auguro tutto il meglio e buon compleanno, Rocco Mazzitelli. Yeah, man.